è difficile riuscire a pagare 70 miliardi quando non ci sono. Diciamo che questo decreto dovrebbe avere un grande merito, intanto di avviare un procedimento che elimina progressivamente lo stock del debito verso le imprese e dal 1 gennaio 2013, se gli impegni del decreto, nei presupposti del decreto rimarranno vincolanti, il decreto prevede il recepimento della norma europea sul pagamento 60 giorni pubblici e privati entro il 31/12 del 2011, quindi dal 2013 dovremmo uscire da quella gabbia che continua ad alimentare il debito pubblico verso le imprese. Quindi un quadro, come dire, che riteniamo ancora un po' complicato, ma si fa sempre più preciso.